suram, caldel manam nel cacciatura, titre vahda conna nodu, nelabu deyen flinken, ola ta floma, ola lmesira, vashra bewa, kenol jiri. Kifti bret, sifto gramaret, mal inglesi jol quartier, and the trabi il malizia, o tarset man ertelir, ertelir tal mi jau erba, tal al guerra che lui mu, ed il come se uan il veru, con giarra leu el delu, zeu cibicam, o abel mar, tant ma volo rec mandani, des danihu, o ratiai, of colza le kinyai.